Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Un noto proverbio afferma che non si può cavare sangue da una rapa. Niente paura, non sto per annunciarvi una nuova specie di rape OGM, ma vorrei farvi notare che sembrerebbe altrettanto improbabile estrarre farina dalla paglia. Eppure una nuova tecnologia ci riesce. Se ne sentì parlare già un paio di anni fa, la cosa sorprese un po' tutti e sollevò anche qualche dubbio e anche qualche maldicenza. Ora però la tecnologia BioEast, questo è il nome della tecnologia, è stata sottoposta a sperimentazione sia da ricercatori dell'Università di Milano che da ricercatori della Sapienza di Roma, e i risultati sono davvero interessanti. Ne parliamo con Luca Malaguti, che è ricercatore del Dipartimento di Scienze Animali dell'Università degli Studi di Milano, che ha curato uno di questi esperimenti. Buonasera Malaguti. Buonasera, buonasera. Allora, intanto spieghiamo un po' che cos'è questo fantomatico macchinario EAST. Quello che possiamo dire, perché diciamolo subito, è poco, visto che c'è un segreto industriale sopra. Il processo tecnologico EAST, che è appunto, come diceva lei, è coperto da un segreto industriale, da un brevetto, opera in modo da separare frazioni diverse di diversa granulometria di biomasse, le più diverse possibili, destinate o all'alimentazione o alla produzione di energia o ad altro. Una sorta di macinatura estrema, diciamo, è una che avviene di mulino in cui sono combinate forze centrifughe e flussi d'aria molto violenti, variabili, molto violenti, che appunto provoca una sorta di scontro tra le molecole, e il risultato finale è appunto la separazione di frazioni diverse dello stesso materiale di partenza, che hanno caratteristiche chimiche e fisiche differenti. Quindi voi vi trovate una, diciamo, una sorta di farina e poi un materiale un po' più grossolano e povero, diciamo. Esattamente. Solitamente vengono separate tre frazioni a granulometria differente, una più grossolana, una intermedia e una più fine, che hanno appunto caratteristiche diverse, ecco, dal punto di vista chimico. Ecco, voi infatti che cosa avete fatto? Avete analizzato proprio queste frazioni, avete condotto una serie di test. Sì, noi abbiamo analizzato tre sottoprodotti, diciamo, utilizzati in alimentazione animale: una crusca di frumento, una paglia di cereali e una paglia ottenuta da stocchi di mais trinciati. Su queste matrici abbiamo condotto una serie di analisi, innanzitutto dal punto di vista chimico, e successivamente delle analisi di tipo biologico per stimare il valore nutritivo di queste matrici. Dall'analisi chimica appunto di queste diverse frazioni abbiamo visto che vi è una concentrazione di principi nutritivi, proteine, amidi, frazioni fibrose, differente e superiori appunto nella frazione fine rispetto alle matrici di partenza. Per esempio la crusca di frumento, che è un sottoprodotto ampiamente utilizzato soprattutto in alimentazione suina, vi è un aumento del contenuto proteico. Nelle nostre prove siamo passati dal 17 al 18,8% e un aumento dell'amido dal 15% a oltre il 35%. Quindi con un arricchimento del valore nutritivo elevato. Ecco, mi sembra di capire, veniva fuori una farina che più o meno ha lo stesso potere nutritivo della farina d'orzo, la parte più pregiata, che insomma aver tirato fuori farina d'orzo dalla paglia è una cosa che sorprende abbastanza, no? Esattamente, poi dalle altre analisi di tipo biologico che abbiamo condotto per stimare il valore nutritivo di queste frazioni, espresso in unità foraggere latte, che è uno dei delle unità di misura tipiche, diciamo, certo, degli indici utilizzati per esprimere il valore nutritivo degli alimenti zootecnici, e la frazione fine, soprattutto della crusca, ma anche poi delle paglie analizzate, presentavano un valore nutritivo molto superiore rispetto al valore del campione di partenza. Dica. Il processo permette di ripartire i principi nutritivi in maniera differente nelle varie frazioni, e quindi chiaramente la frazione più fine è quella che concentra i maggiori principi nutritivi. Ecco, delle altre frazioni comunque ci si può fare qualcosa. Chiaramente hanno un valore nutritivo differente, però potrebbero essere destinate per esempio ad altri scopi, per la produzione di energia, oppure sempre come alimento zootecnico, magari per categorie di animali meno esigenti. Dai gusti meno difficili. Sì. Senta, questa tecnologia ha sollevato molti interessi da parte di diversi paesi, per esempio dell'Africa subsahariana, perché comunque è quasi come avere una fonte di cibo in più, perché poi queste farine sono adatte anche all'alimentazione umana. Io le chiedo però come sia possibile, cioè nulla si crea dal nulla, ecco, com'è possibile che dalla paglia o da queste crusche si tiri fuori farina? Senz'altro non si crea nulla in più rispetto a quello che c'era già dentro al processo al prodotto di partenza, sicuramente. Ripeto, viene ripartito in modo diverso e soprattutto è il ruolo della lignina che incrosta fortemente la cellula vegetale, rendendo indisponibile l'amido, le proteine, la cellulosa, eccetera. Con questo processo la lignina viene concentrata nelle frazioni a più alta granulometria e appunto quei principi nutritivi che abbiamo detto, proteine, grassi, amido, cellulosa, eccetera, vengono rese maggiormente disponibili. Quindi magari un certo quantitativo di nutrienti che era presente nella paglia ma non veniva assimilato dagli animali quando la mangiavano, esatto, a questo punto l'assimilano. Esatto, viene reso disponibile e quindi può essere poi assimilato. Grazie dottor Malagutti. Grazie a voi, a risentirci. Ci fermiamo qui, ma torniamo a parlare di questa tecnologia HIST domani, perché i risultati sono ancora più eclatanti quando questa tecnologia viene applicata alla filiera del biogas. Per intanto buona serata.